Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Fini difende Bocchino, dimissionato senza ragioni, dice ancora tensione nella maggioranza. Tornano a correre inflazione e disoccupazione, in un anno persi 367.000 posti di lavoro. Chiusa l'inchiesta sulla morte di Cucchi, si aggrava la posizione dei medici. La marea nera non frena la sua corsa, per l'America è emergenza nazionale. Useremo tutte le risorse possibili, anche l'esercito, dice il presidente Obama parlando delle contromisure per contenere un disastro ecologico che rischia di far impallidire quello della Exxon Valdez del 1989. La fuoriuscita di greggio dalla piattaforma della British Petroleum nel Golfo del Messico, sprofondata una settimana fa dopo un'esplosione, è 5 volte superiore a quella inizialmente dichiarata. Dopo che i robot sottomarini hanno fallito nel tentativo di tappare la falla, la Guardia Costiera statunitense è ricorsa all'incendio controllato, ma intanto la macchia nera è diventata più grande di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna messi insieme. Billy Nungesser è il governatore della regione in cui si trova il delta del Mississippi, già toccato dall'onda di greggio. L'acqua supera le barriere, dice, e il petrolio raggiunge la riva, e questo quando ancora il grosso non è arrivato. Sono spaventato, ammette David Kennedy della National Oceanic and Atmospheric Administration. A rischio ci sono un ecosistema già particolarmente fragile e un'economia fortemente legata all'itticoltura. I pescatori del Delta hanno passato la notte a raccogliere i gamberi prima che l'onda li uccidesse. La Casa Bianca ha detto che i costi per ripulire la marea nera ricadranno su BP, che ieri infatti ha perso l'8% sui mercati finanziari. Ma per Obama il problema è anche politico. Il disastro arriva infatti a poche settimane dalla sua decisione di riavviare il programma di trivellazioni offshore. Laura Bettini, GR24, il Sole 24 Ore. Buona giornata dalla redazione, buona giornata dunque da Anna Migliorati. Questa è l'emergenza nazionale americana, potrebbe essere, come dicevamo, la peggiore catastrofe naturale degli ultimi anni. Ma veniamo ora in Italia, ci sono, sentivamo nei titoli, importanti dati economici, ma va avanti anche intanto un duro scontro politico che non accenna a rallentare, anzi, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Scontro politico dunque tutto interno al Popolo della Libertà e che ruota anche oggi intorno alle polemiche tra Berlusconi e Fini. Questa mattina il Consiglio dei Ministri, durante il quale il Premier avrebbe smentito di aver definito l'ex leader di AN un traditore, che nel PDL tuttavia non ci sia più la compattezza di prima, è un dato di fatto ed evidente dopo lo scivolone alla Camera della maggioranza sul lavoro. Da qui il richiamo di Berlusconi: è necessario assicurare le presenze in aula, ha detto il Cavaliere, in Consiglio dei Ministri per sostenere i provvedimenti del Governo. A parlare oggi anche Fini. Da Varese, il presidente della Camera, è intervenuto sulle dimissioni di Bocchino, a lui va la mia solidarietà, è stato dimissionato senza ragione, ha detto Fini, ma ascoltiamo le sue parole. Io ritengo che l'onorevole Bocchino sia stato dimissionato senza che ce ne fossero le ragioni, non mi risulta che avesse fatto male il vicepresidente del gruppo e quindi ha la mia piena solidarietà. Al tempo stesso non si può però dire, come tu forse involontariamente hai detto, ecco la riprova che c'è la impossibilità di esprimere le opinioni. Tra l'altro ieri sera Bocchino l'ha espressa la sua opinione, quindi se no tu non la conosceresti. La mia, ha detto ancora Fini, non è apologia della moderazione, ma l'invita a non avvelenare di più le coscienze e a non seminare l'odio. Sul caso Bocchino è intervenuto anche Bonaiuti, portavoce di Berlusconi. Non c'è stata nessuna epurazione, ha detto Bonaiuti, le dimissioni è lui stesso che le ha presentate. Infine il caso Scajola, Berlusconi ha espresso la sua solidarietà durante il Consiglio dei Ministri. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietti. Allora sentivamo l'inchiesta a la vicenda Scajola, allora facciamo il punto sull'inchiesta sui grandi appalti e sulle accuse al ministro con Raffaella Calandra. 900.000 euro, una casa vista Colosseo e 80 assegni consegnati direttamente da Claudio Scajola. Dietro le ricostruzioni dei PM di Perugia, di cui vi abbiamo riferito già ieri, ci sono anche 4 testimonianze, 4 persone che a verbale hanno dichiarato che fu lo stesso ministro nel suo ufficio a portare gli assegni circolari per l'acquisto del prestigioso appartamento a Roma. Tanti assegni per restare sempre al di sotto della soglia che avrebbe fatto scattare accertamenti nella banca, ma quella casa non sarebbe costata 600.000 euro, come già assicurato nei giorni scorsi da Scajola, bensì 1.700.000, secondo i calcoli dell'accusa, che riportano quanto dichiarato dalle proprietarie della casa venduta e poi dallo stesso architetto intermediario Angelo Zampolini, che sta collaborando con gli inquirenti. La procedura fu quella seguita solitamente: versai sul mio conto corrente i soldi messi a disposizione di Anemone, il costruttore già indagato, dichiara, e poi provvidi a prelevarli sotto forma di assegni circolari. 240 sarebbero i conti correnti, secondo rivelazioni riportate oggi dalla stampa, riconducibili a Zamparini, ma tracce di soldi porterebbero già anche fino a finanziarie di San Marino. Oltre a quella di Scajola sarebbero state acquistate con gli stessi metodi anche una casa del generale della Guardia di Finanza, ora all'Aisi, e del figlio di Balducci. Lo stesso costruttore aveva infine avuto anche lavori per ministeri come per servizi segreti. Su una tappa determinante per lo sviluppo dell'inchiesta sui grandi appalti sarà tra l'11 e il 13 maggio prossimo, quando il Tribunale del Riesame di Perugia dovrà pronunciarsi sulla competenza territoriale di questo filone d'inchiesta dopo il no della GIP a delle misure restrittive a degli arresti chiesti dai procuratori di Perugia. E per ora è tutto. E grazie a Raffaella Calandra. Intanto sul fronte politico, questa mattina da registrare che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legge in materia di spettacoli e di attività culturali dopo le modifiche nel testo effettuate dal Consiglio dei Ministri dopo le osservazioni dello stesso capo dello Stato, che ricordiamo non aveva firmato il decreto sugli enti lirici. Il ministro dei beni culturali ha fatto sapere anche che incontrerà nei prossimi giorni le rappresentanze sindacali. Voltiamo pagina e non sono buone notizie quelle che arrivano sul fronte economico. Tornano a salire infatti i prezzi al consumo in Italia. L'inflazione ad aprile è salita al più 1,5% annuo dal più 1,4% registrato a marzo. Si tratta del maggior incremento tendenziale da febbraio 2009. Su base mensile i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,4% e a correre è soprattutto l'energia, pesa il prezzo della benzina. Cresce anche la disoccupazione, che a marzo è schizzata all'8,8% dall'8,6% di febbraio. È il dato peggiore dal 2002. In sostanza, in un anno si sono persi 367.000 posti di lavoro. Torna a crescere anche la disoccupazione femminile, che aveva rallentato nel 2009. Al microfono di Andrea Viali allora il commento del ministro del Welfare Maurizio Sacconi. Mi preoccupa la dimensione della disoccupazione che abbiamo, perché al di là del dato mensile, che contiene alcuni aspetti negativi e qualche aspetto positivo, nel senso che scende il tasso di disoccupazione giovanile, scende il tasso di inattività di quelli che non cercano e non hanno lavoro, mi consola poco la differenza con l'Europa, nel senso che siamo al di sotto della media europea. Ma ci preoccupa il fatto che la ripresa, per quanto ci sia, è discontinua e dobbiamo tradurla in posti di lavoro, e quindi dobbiamo ancora proteggere con gli ammortizzatori sociali coloro che sono costretti all'inattività e allo stesso tempo investire robustamente nelle competenze per accompagnare più agevolmente al lavoro. Media europea sentivamo dal ministro del Welfare Sacconi, che si attesta al 10%, ma in Europa va sicuramente peggio per la Spagna, dove è stato ufficializzato oggi il dato sulla disoccupazione già trapelato nei giorni scorsi. A fine marzo la disoccupazione in Spagna ha superato la soglia psicologica del 20%, i massimi per il paese spagnolo dal 1997. E in Grecia, ieri sera scontri di piazza dopo l'annuncio dell'austerità chiesta dall'Europa per dare aiuti. Oggi qual è il clima? Anche oggi ad Atene ci aspetta Vittorio Darold, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, il clima è abbastanza tranquillo dopo lo scontro di ieri sera con un gruppo di anarchici che hanno tentato di assalire il Parlamento, nella zona del Parlamento di Piazza Sintagma, dove però le forze dell'ordine hanno chiuso immediatamente il traffico e hanno poi impedito ai facinorosi di avvicinarsi appunto al Parlamento lanciando dei candelotti lacrimogeni. Dopodiché questa mattina la situazione è più tranquilla, si parla di indiscrezioni che il governo possa addirittura questa sera presentare il piano in un consiglio dei ministri straordinari, ma è più probabile che lo faccia nel weekend, quindi domenica. Intanto cominciano a esserci delle indiscrezioni per cui rabbonire i militari che hanno subito un taglio ai salari, il ministro della difesa sembra abbia promesso di aumentare, di tornare appunto agli stessi livelli precedenti attraverso delle altre indennità. Quindi l'Unione Europea e il Fondo Monetario sono molto vigili e hanno chiesto che verrà controllato mensilmente il piano, per cui ci sarà una specie di commissariamento del paese per evitare appunto che ci siano altri trucchi dopo l'arrivo dei soldi. Comunque confermavi oggi nessuno scontro? Assolutamente, la situazione è tranquilla, sembra che ci sia appunto una concertazione sindacale alla greca, dove appunto i sindacati solitamente molto battaglieri all'uscita appunto dalla riunione con il primo ministro e le forze sociali hanno dato un segnale di collaborazione e di essersi reso conto che la situazione è veramente drammatica e quindi qualsiasi tipo di opposizione ai tagli sarebbe vista dai mercati come un segnale pericolosissimo. Grazie da Atene a Vittorio D'Arold. Noi torniamo in Italia e torniamo con la cronaca. Chiusa infatti l'inchiesta per la morte di Stefano Cucchi, ricorderete, morto dopo l'arresto, ma quella che emerge sembra essere un'altra storia. Lesioni ed abuso di autorità per i tre agenti penitenziari accusati del presunto pestaggio di Stefano Cucchi, favoreggiamento, abbandono di incapace, abuso d'ufficio e falsità ideologica per 10 tra funzionari della pubblica amministrazione, medici ed infermieri dell'ospedale Sandro Pertini, in cui Cucchi morì il 22 ottobre scorso, una settimana dopo il suo arresto per possesso di droga. Sono le accuse formulate dalla Procura di Roma ai 13 indagati per la morte del giovane geometra romano. I pubblici ministeri, Barba e Loi, hanno depositato gli atti del procedimento, in base a quanto previsto dall'articolo 415 bis del codice di procedura penale, quello che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio degli indagati. I magistrati hanno modificato le originarie ipotesi di accusa, che erano di omicidio preterintenzionale per gli agenti e di omicidio colposo per i medici del Sandro Pertini. Anna Rita Lambrosio, GR24. Il Sole 24 Ore. Le 13:16 minuti, le notizie di oggi di GR24. Fini difende Bocchino, dimissionato senza ragioni, dice è ancora tensione nella maggioranza. E si difende Scajola, ho la coscienza a posto dopo le nuove accuse nella vicenda dei grandi appalti, così ha parlato nel corso del Consiglio dei Ministri. Tornano a correre inflazione e disoccupazione, in un anno persi 367.000 posti di lavoro. Chiusa l'inchiesta sulla morte di Cucchi, si aggrava la posizione dei medici, in 13 rischiano il processo. E infine la marea nera non frena la sua corsa per l'America, è ormai emergenza nazionale. Ma ripartiamo, come dicevamo, da Torino, dove è in corso l'assemblea degli azionisti di Intesa San Paolo dopo la rinuncia di Siniscalco alla presidenza. Quali allora gli umori? Sta seguendo i lavori Alessandro Graziani. Buongiorno, che sta succedendo? Buongiorno a voi. L'assemblea di Intesa è iniziata alle 11, è previsto che vada avanti per molte ore perché molti sono i punti all'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio, soprattutto il rinnovo del Consiglio di sorveglianza, con l'attesa presidenza di Giovanni Bazzoli che sarà confermato, ma l'attenzione in questi giorni è tutta concentrata sulla nomina successiva che dovrà essere fatta del Consiglio di gestione della banca, che è quello che l'amministra, con la conferma attesa di Corrado Passera come amministratore delegato e invece lo scontro per la nomina alla presidenza tra l'uscente Enrico Salza, che a questo punto potrebbe anche essere riconfermato, dopo il clamoroso ritiro di Domenico Siniscalco, che ieri ha annunciato di rinunciare, visto che sulla sua candidatura non c'era l'unanimità proprio da parte del versante torinese. E gli umori oggi quali sono? L'umore per il momento dall'assemblea non traspare ancora, vediamo più tardi, soprattutto domani, quando forse si potrebbe già riunire il Consiglio di sorveglianza della banca e avviare la procedura che porterà poi alla alla scelta del presidente con Andrea Beltratti, che è l'altro candidato che a questo punto ha ottime probabilità di diventare presidente. E quindi aggiornamenti con te naturalmente nelle prossime ore. Grazie nel frattempo ad Alessandro Graziani. Lavoro, legalità e solidarietà è lo slogan che racchiude i temi della festa del primo maggio, che quest'anno ormai ci siamo, si terrà a Rosarno. Ragioni di questa scelta da Sergio Genco, segretario CGIL Calabria, lo ha intervistato Katia Caramelli. Per quanto è accaduto a Rosarno e nella piana 7, 8, 9 e 10 di gennaio, con la cacciata dei migranti, e per continuare a sviluppare un'azione forte di solidarietà, di accoglienza, per chiedere che la legge Bossi-Fini possa essere superata, per cui da Rosarno, dalla piana di Gioia Tauro, un grande messaggio all'Italia, un messaggio di solidarietà, un messaggio di inclusione attraverso tre parole d'ordine assolutamente importanti: il lavoro buono per tutti, dentro uno sviluppo di qualità, la solidarietà e la legalità. La legalità come contesto essenziale per far sì che lo sviluppo possa effettivamente esserci. Gli arresti di questi ultimi giorni hanno tra l'altro chiarito molto il quadro di quanto accaduto a Rosarno. Vanno nella giusta direzione, sottolineano una commistione tra imprese, 'ndrangheta, che determinava un controllo delle attività produttive e attraverso il controllo delle attività produttive un controllo esasperato della mano d'opera, per cui una situazione di vero e proprio schiavismo. E non mancherà il tradizionale concerto, Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno, si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del concerto del primo maggio qui in Piazza San Giovanni, dove domani la musica inizierà alle 15 e si andrà avanti fino a mezzanotte. Oggi ci sono le prove degli artisti, come forse potrete sentire in sottofondo. Sul palco ci saranno Vinicio Capostella, Carmen Consoli, Pennato, Bersani e per la prima volta anche un'orchestra sinfonica. Quest'anno il titolo scelto per la manifestazione del primo maggio di Roma è Il colore delle parole, questo perché si parlerà anche dei lavoratori e dei loro problemi in tempo di crisi. Questo a partire dalla conduttrice, l'attrice e comica Sabrina Impacciatore, che leggerà sul palco le lettere che molte ragazze le hanno inviato in questi giorni. Ci sarà anche Massimo Ranieri, che interpreterà le poesie di Edoardo De Filippo, ma anche molti altri attori che proporranno letture sugli immigrati arrivati in Italia. La manifestazione, allora, ricordiamo che si apre con i vincitori del concorso del primo maggio tutto l'anno, con l'anteprima del concertone condotta da Paolo Belli. E per il momento da Roma è tutto, linea a voi. Grazie a Maria Chiara Grandis, appuntamento anche per noi di Radio 24 domani alle 13:15, lo speciale primo maggio. E domani molti comuni hanno deciso di concedere la possibilità ai commercianti di tenere i negozi aperti, restano chiusi in molte grandi città, non così però dappertutto. Una scelta che ha suscitato un dibattito e la posizione critica dei sindacati, che hanno parlato di festa dei lavoratori svenduta alla società del consumo. Nel nostro sondaggio di oggi, questa mattina, vi chiedevamo se siete d'accordo con le amministrazioni comunali che hanno dato la libertà di aprire i negozi. Vi siete spaccati esattamente a metà, con il 51% di sì. Andiamo ora a Shanghai, perché se Milano aspetta l'Expo, in Asia mancano ormai poche ore. 58 milioni di dollari di spesa per le nuove infrastrutture, 189 nazioni coinvolte, l'arrivo di 70 milioni di visitatori previsti per i 6 mesi della durata della manifestazione. A Shanghai è tutto pronto per l'inizio dell'Expo 2010, che prenderà il via stasera con un esclusivo gala al quale parteciperanno, tra gli altri, José Barroso, Nicolas Sarkozy e Carla Bruni, e aprirà ufficialmente i battenti domani. Pudong, il centro finanziario della città, è stato chiuso al pubblico per la manifestazione di fuochi artificiali di stasera, che si preannuncia come la più imponente apertura di un Expo di tutti i tempi. Nata nel 1851 a Londra per mostrare al grande pubblico il meglio delle innovazioni di ogni nazione, l'esposizione universale si tiene ogni 5 anni ed è giunta alla 21esima edizione. Il tema di quest'anno è Better City, Better Life. L'Italia è presente ai massimi livelli con il padiglione Le città dell'uomo, 3600 metri quadri per 18 metri d'altezza, completamente ecocompatibile. Dopo la chiusura di Shanghai 2010, 2010, alla fine di ottobre, il testimone passerà all'Italia per l'Expo di Milano 2015. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Shanghai. Notizia dell'ultima ora, vi abbiamo raccontato della marea nera che sta ormai puntando verso le coste americane, dove è emergenza nazionale. È arrivato poco fa una nota della Casa Bianca. Annuncia lo stop alle trivellazioni petrolifere in 9 aree fino a che non verrà verificata la causa che ha determinato la fuoriuscita di greggio nel Golfo del Messico. Torniamo alla cronaca e andiamo a Napoli. 11 agenti della sezione Falchi, ovvero i poliziotti anticipo, sono stati arrestati dai loro stessi colleghi con l'accusa di peculato e abuso d'ufficio. Gli indagati hanno ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare e i poliziotti sono stati così condotti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'inchiesta riguarda un episodio che risale allo scorso 20 febbraio, quando una pattuglia dei Falchi della squadra mobile della questura di Napoli intervenne nel porto in seguito alla segnalazione di una rapina di un camion carico di prosciutti ed altri generi alimentari. Gli agenti chiamarono in ausilio altri colleghi e redassero un verbale che si è poi rivelato falso. In particolare, i poliziotti, secondo l'accusa, trattennero per loro una parte del carico. Indagini sono in corso da parte della procura per verificare se si siano verificati altri episodi analoghi. I provvedimenti richiesti dai PM Paolo Sirleo e Maria Sepe sono stati emessi dal GIP Claudia Picciotti. Paolo Picone, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Un passo in difesa della dignità della donna, così i deputati belgi hanno definito la nuova legge approvata ieri alla Camera belga, che proibisce di indossare il burqa e il niqab nei luoghi pubblici. La Francia dovrebbe approvare una norma analoga su proposta del governo entro maggio. Roberta Pellegatta ha interpellato al riguardo Suad Sbail, presidente dell'Associazione delle donne marocchine in Italia. Questa legge è per liberare quelle donne che ce lo chiedono loro. L'estremismo radicale vuole annullare totalmente la figura femminile, perché sa che la donna è la donna che porta comunque una certa integrazione, che cambia le cose. Loro questo lo sanno e allora bloccano le donne per tornare indietro. Certo, io sono triste nello stesso tempo, perché non avrei mai voluto che succedesse in Europa, in Occidente, una legge contro il niqab. Avrei voluto più nei paesi arabi, che come le donne iraniane che stanno morendo nelle piazze per liberarsi. E noi che siamo in Occidente, per me era scontato questo. Una donna che va in giro in quel modo non ha un futuro sociale, culturale, economico. Io sfido chiunque faccia entrare in sua casa e far lavorare una donna con il niqab. Nessuno l'accetterebbe. E quelle donne soffrono dentro, soffrono non solo loro, anche i loro figli, che crescono con questa diversità, vedere una madre che non c'è, che non esiste. Quindi non lei esclude che alcune donne indossino il velo per proprio volere, perché sono abituate, perché fa parte della loro cultura, e quindi il divieto, qualcuno dice, può essere comunque un limite alla loro libertà. Ma chi dice questo dice sciocchezze. Ma quando la cultura annulla una figura umana, annulla la civiltà. L'intervista di Roberta Pellegatta. Siamo al calcio, aspettando la finale di Champions League, si torna a pensare al campionato di casa nostra. La settimana europea, che potrebbe aver cambiato in meglio il futuro prossimo del nostro calcio, è alle spalle. Prima l'impresa dell'Inter, poi il KO dell'Amburgo, che rende possibile la difesa del terzo posto nel ranking UEFA e il conseguente posto in più nella Champions League 2011-2012. Tutto alle spalle, perché oggi è già vigilia di campionato, e non una vigilia banale, visto che a Trigoria la Roma, dopo essersi leccata le ferite per il suicidio contro la Samp, progetta lo sbarco a Parma per inseguire le ultime speranze scudetto. Saranno 29 ore di fuoco domani alle 18 Parma-Roma, domenica alle 15 Atalanta-Bologna e alle 20:45 Lazio-Inter. Tutto può restare aperto oppure tutto può chiudersi, consegnando i verdetti per tricolore retrocessione. Due giornate cariche anche di storie e di simboli, da Leonardo in bilico a Balotelli, che ha chiesto perdono e che oggi torna alla Pinetina, per non dimenticare che sarà la prima domenica con un Agnelli di nuovo alla guida della Juventus. Giovanni Capuano, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:28, ci fermiamo qui, c'è Italia in controluce, prossimo appuntamento con GR24 come sempre alle 14. Allora un saluto da Anna Migliorati, che ha curato e condotto questa edizione del giornale, in regia Pietro Lacorte, buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.